Zibaldone. Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone. Un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone. Zibaldone. E buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, ben ritornati qui sulle frequenze di Radio Contrabanda per una nuova puntata di Zibaldone, che come sapete è un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 sulle frequenze di questa storica radio libera barcellonese. Contrabanda FM 91.4 sull'irettorale catarano, in streaming all over the world dalla web della nostra radio contrabanda.org, e poi già sapete che trovate una parecchi podcast scaricati dal nostro blog zibaldone.contrabanda.org dall'inizio del 2011, quindi ne avete tantissimi, e soprattutto avete anche le due precedenti puntate, ossia quelle delle ultime due settimane, degli scorsi venerdì, di questo monografico o speciale che dir si voglia, dedicato, o almeno meglio dire intitolato, la famosa invasione dei dementi in Italia, uno speciale che insomma vi abbiamo già detto molte cose. Quest'oggi continuiamo e riprendiamo dall'inizio degli anni 90 per arrivare fino all'attualità con questo brano, è il primo che ci ascoltiamo quest'oggi, Pino Campagna, Donatella, Raffa Twist, sentitevelo qui. Cara Donatella, come sei carina, sei una camomilla per noi, con quegli orecchini, con quegli occhialini che hai. Quando ti disperi, quando ti commuovi, noi ci commuoviamo con te. E non c'è italiano che non si innamori, che voglia sparire per te. Cara Donatella, una domandina, qualche minigonna ce l'hai? Perché non te la metti per farci sognare un po' noi? E noi che siamo a casa, noi che abbiamo la scusa, che abbiamo perso Mimì. Ma tu non fai una piega e dal lontano noi ci rispondi così. Se penso un fratello lo troverai, solo col tuo mistero la fai. Se cerchi il cugino lo troverai, solo col tuo mistero la fai. Twist, twist, twist, twist, ma chi l'ha visto, ma chi l'ha visto. Twist, twist, twist, twist, ma chi l'ha visto, ma chi l'ha visto. Spiegami una cosa, il tuo parrucchiere chi è? Con quei capelli gialli, sempre un po' biscardi, perché? E non ti fai le mesh, i colpi di flash, come ce li ha la Carrà. Ma tu mi rispondi, fatti, fatti tuoi, e dal lontano mi fa. Sei perso uno zio, lo troverai, solo col tuo mister la raffai. Sei perso tuo nonno, lo troverai, solo col tuo mister la raffai. Ma chi l'ha visto, ma chi l'ha visto, tu is, tu is, tu is, tu is, ma chi l'ha visto, ma chi l'ha visto. Mi sono perduto stato una vita. Dove che vai? Questa canzone ormai non finisce mai, maestro. Questa canzone ormai non finisce mai, maestro. Oh! Eccoci, piano. Eh beh, molto ballabile, bisogna dire la verità, questo brano con cui abbiamo aperto la terza ed ultima parte del monografico La famosa invasione dei dementi in Italia, con cui vi stiamo accompagnando in questa prima parte del mese di maggio. Banzo, questo brano Donatella Raffai Twist di Pino Campagna non solo ci riporta al punto in cui bene o male l'inizio degli anni 90, abbiamo chiuso la seconda puntata la settimana scorsa, ma anche ci porta anche alla centralità, per così dire, della televisione, dei personaggi televisivi. Sì, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buon a proposito, pomeriggio. Banzo, scusa, ormai sai, ci conosciamo da tanto, quasi non ti saluto più. Buon pomeriggio all'ergonomico Banzo, eccolo qua. Le formalità, buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Sì, appunto, questa canzone mi è sembrata interessante perché poteva essere oscura per chi non ha vissuto quegli anni, ecco, nel senso perché descrive molto bene una tendenza della musica demenziale o ironica a prendere fenomeni del momento per trarne una canzone. Diciamo, siamo nel 1992, un momento in cui il programma Chi l'ha visto godeva di grande successo di pubblico ed era condotto dalla giornalista Donatella Raffai. E effettivamente è curioso perché molto spesso ci sono queste canzoni che parlano di un fenomeno d'attualità e nel giro di un decennio o due diventano quasi incomprensibili. Poi un altro motivo di interesse di questo brano è che aveva partecipato al Festival di San Scemo del 1992. Il famoso Festival di San Scemo di cui abbiamo parlato la scorsa settimana. Esatto, ne avevamo parlato venerdì scorso, spezzando un po' le canzoni selezionate da questo festival fra la puntata precedente e questa. Però non era stata la canzone vincitrice dell'edizione, perché quella l'aveva vinta Dario Vergassola, l'edizione del 92, ma mi era sembrata comunque una canzone degna di nota per descrivere alcuni fenomeni e alcuni processi, diciamo. Per concludere su Pino Campagna, perché non ho detto nulla sull'autore di questa canzone, Foggiano aveva cominciato negli anni 80 con la canzone folclorica di impronta ironica, poi approdò anche a Zelig, per sicuramente gli spettatori del famoso programma lo ricordano, e quindi ancora una volta vediamo questa commistione fra musica ironica e TV. Eh sì, TV e soprattutto insomma show comici. La butto lì Banzo, ma parlando di personaggi televisivi dell'epoca, gli anni di Tangentopoli, e parlando proprio in concreto di giornalisti, non c'è nessun brano, a te non risulta, dedicato a Paolo Brosio? Mi prendi alla sprovvista, è una bellissima domanda, in questo momento non sono in grado di risponderti, però se indagheremo, mi lasci tempo posso provare a indagare. Volevo dire così a mo' di chiusa che Donatella Raffai è comunque scomparsa l'8 febbraio del 2022, forse il pubblico più giovane non la ricorda, però in quel periodo storico partecipò anche Telefono Giallo negli anni 80, ebbe una grande presenza nei programmi di Rai 3 di, diciamo, cronaca variamente intesa, giornalismo, cronaca, approfondimento. Noi rimaniamo nei primi anni 80, andiamo al 93, sempre nel mezzo di Tangentopoli, con questa Scioglimi il calcare di Stefano Nosei. Eccola qui. Scioglimi il calcare, scioglimi il calcare di uno di quei lavandini dove l'acqua non va più giù, pieno di capelli, aiutami a sturare il tappo di quel dentifricio che non chiudi mai. Scioglimi il calcare, non stare lì a guardare, è tanto tempo che non mi riesco più a lavare. Li vedi coi tuoi occhi, questi brufoli e punti neri, persino il tram non si è fermato ad aspettare. Parliamo del bidet, del poco che facevi, e se anche nel tuo ufficio la polvere lasciavi, da come ti vestivi, da come ti pettinavi, dovevo supporlo già, che toccavano a me i mestieri. Vai col Viacal, col cifammoniacal, se struscio forte mi slogo i polsi, ma lo smalto non si grafferà. Dai struscia, dai, e la polvere è un'utopia, è tanto lunto che adesso viene l'omino bianco a portarmi via. Ma io di certo non mi spavento, struscio, canto e qualche volta stono, e poi non sono così convinto che non siano cose adatte a un uomo. E vorrei, vorrei una lavatrice, sì vorrei, vorrei anche la friggitrice. Dai struscia, dai, con più forza non ti fermare, e sono sempre i pavimenti più difficili da lucidare. Ciao mamma ciao, che sorpresa, c'è anche la zia, ma c'è la cera sul pavimento, state attente che volate via. Ecco, mettetevi le pattine, che sennò mi rigate tutto. Sai mamma, la cera che mi hai consigliato è proprio buona. Cosa? Questo profumo? È il nuovo deodorante al mughetto che uso per il water. Guarda, una fragranza. Aspettatemi qui nel salottino che mi cambio e andiamo a fare la spesa. Voglio prendere un po' di quella presaolina di quando abbiamo invitato Mariuccio e la Tana. Tagliata fina fina, è la fine del mondo. E vabbè, qui avete sentito che siamo passati dal primo brano che era ballabile, era un twist, in questo caso a un brano quasi strappalacrime da musica leggera primi anni 90, insomma da accendere l'accendino, no? Così se fosse stato un concerto live in piazza. Si trattava, e questo è anche un po' il motivo, di una cover ironica, come avete sentito, demenziale, forse meglio dire, di un brano di Luca Barbarossa, però ce lo spiega il nostro Fausto De Salvia, che anche quest'oggi ci accompagna qui a Zibaldone. Baldone. Fausto, bentornato. Ciao Steven, ciao a tutti. Sì, questa è una bellissima cover che Nosei ha realizzato nel 1993 partendo dal brano che aveva vinto il Sanremo dell'anno prima, Portami a ballare, appunto, di Luca Barbarossa. E questa era la specialità di Nosei, è un cantautore specializzato proprio in parodie curatissime, molto ricercate, di brani sia di successo ma anche del passato. Lui, fra l'altro, spezzino come Bergassola, che avevate citato prima, quindi diciamo che la Spezia ha una grandissima produzione in ambito demenziale. E in quest'album qui, che ricordiamo si chiamava Mi ricordo lasagne verdi, quindi titolo significativo, si avvaleva della collaborazione di Rocco Tanica, quindi tornano anche in questa puntata gli Elisore Tese con le loro produzioni, quindi Rocco Tanica collabora, produce i brani, fra l'altro negli strumenti dei musicisti abbiamo anche un nome che molto non dirà nulla, ma è Michel Tadini. Tu potresti dirmi chi è Michel, infatti, Tadini? Chi è Michel Tadini? Michel Tadini lavorava con Vince Tempora ed è il cantante della sigla di Goldrake, quindi eccolo. Della serie che ancora si muoveva in ambito musicale. E quindi ricordiamo anche che nell'ambito del demenziale tanti gruppi negli anni 90 producevano parodie delle sigle dei cartoni, e vedremo qualcosa in proposito proprio più avanti. Eh sì, ma a proposito di mix tra canzone demenziale, TV e sigle, andiamo ad ascoltarcene proprio una di quel 1993. Non vi dico nemmeno qual è, perché secondo me alcuni di quelli che hanno una quarantina d'anni se la ricordano molto bene. Visto sdraiato dentro un letto e facevo un po' il galletto. Mi han trovato sul mercato che vendevo il surgelato. Insomma, avete capito il riferimento a un programma della Jalapas Band che veniva nominata anche alla fine di questa canzone di Gianni Drudi, Mai Dire TV, e così è anche Fausto il titolo della canzone. Sì, Steven, io ammetto che ero un grandissimo fan del programma, perché Mai Dire TV è stato veramente un occhio sulla realtà delle TV locali italiane, sul poliedrico mondo di cantanti improbabili, maghi, televendite. E tanti lo ricordiamo con nostalgia, anche se durata alla fine credo solo 2 o 3 stagioni, dal 92, dal 91 al 93. E proprio nel 93 Drudi compone questo brano che ricorda, citandoli nel testo, le ambientazioni dei suoi video molto, diciamo, artigianali realizzati appunto in Romagna per promuovere i suoi brani e trasmessi in genere dalla mitica emittente ormai purtroppo defunta Telemare. Che molti noi della zona ricordiamo anche per programmazioni in orari, diciamo, molto tardi, però non andiamo in dettagli, ecco. E quindi, fra l'altro, in questo album qui, che contiene il brano, l'album si chiama Il Goliardico Drudi, quindi veramente proprio il suo genere, quindi demenzialità tendente alla goliardia boccaccesca, anche perché il genere è quello, però con produttore d'eccezione, perché anche qui i suoni sono di Vince Tempera, quindi torna sempre anche Tempera, sì, che abbiamo citato prima, quindi grande produzione e poi grande esposizione televisiva per un personaggio che dalla Romagna ha conquistato tutta l'Italia. Eh sì, insomma, brano più famoso Fichi Fichi, che veniva anche nominato alla fine della canzone. Continuiamo, troviamo una band, forse una delle più conosciute o la più conosciuta di quelle che vi faremo sentire quest'oggi. Parlo della Paolino Paperino Band con un brano che uscì sempre in quel 1993. Eccola qui. Yeah. io. Bravo, hai capito tutto. Io non sono mica razzista, però tu dimmi quante volte io sono andato a rompere in casa a casa loro. Bravo, noi è sin da dopo guerra che coltivano la terra, perché non hanno fatto anche loro come noi. Bravo, peccato che sei il deserto. Sei un semplice fortuna, sei cattivo, hai paura. Questo finale così un po' dada, un brano, avete sentito, molto punk rock, questo della Paolino Paperino Band, che non solo ci riporta a un tema che in realtà è di grande attualità, purtroppo, che è quello del razzismo e della xenofobia, se no un brano di 30 anni fa che ci riporta anche Banzo a un termine ormai passato in disuso, quello di extracomunitario, che al giorno d'oggi praticamente non si utilizza più, si parla nella retorica soprattutto dell'estrema destra, si nominava anche la Lega come no, del tempo, insomma, ma anche insomma, tutte le estreme destre di oggi si parla di clandestini, di migranti o di stranieri. Sì, è un termine vintage, anche perché poi extracomunitario è sempre stato usato a sproposito, perché evidentemente significa proveniente da fuori l'Unione Europea, quindi anche un norvegese tecnicamente è extracomunitario. Vabbè, comunque era un termine che appunto in quel periodo storico era di grandissimo utilizzo, di grandissima frequenza, e la Paolino Paperino Band, gruppo storico modenese, diciamo che nelle sue canzoni affrontava molti temi sociali nel loro primo periodo di attività fra l'87 e il 94, quindi toccarono molte delle questioni che riguardavano l'Italia di quel periodo. Ci sono canzoni, ad esempio ricordo anche la mitica Tafferugli sulla violenza negli stadi, si parlava degli ultra, poi c'erano temi anche più generali come l'inquinamento. Comunque i modenesi avevano questa ispirazione più sociale, anche se c'era qualche canzone sul sesso come la famosa Porno Tu, che me li fece scoprire moltissimi anni fa. E dopo la prima fase della loro carriera si separarono per moltissimo tempo, tornarono nel 2012 con solo due membri originari, adesso rimane solo Fabio Zini in arte Iana, il cantante, e comunque hanno proposto altri due album, nel 2013 Porcellum e nel 2017 C'è gente che dormono, dal quale andiamo a ascoltare una canzone che conferma la loro vocazione di critica sociale. Si titola Ave 2017. Se ascolti rock in chiesa, se cerchi dell'hardcore in TV, oh yeah, vuol dire che ti fai tante Se ti prende con ardore, forse quello è vero amore. Se ti prende nell'amplesso, forse quello è solo sesso. Se ti prende dappertutto, anche in galleria, può essere solo Radio Maria. Piena di banda, il segnale con te. Tu sei benedetta fra le radio, benedetta. Il tuo segnale arriva anche in Perù. Ma dico, scusa, colui che risuscitava i morti non può guarire te dall'omosessualità? Santa frequenza, voce di Dio, trasmetti per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Signore e signori, i nostri programmi cominceranno alle ore 8 con il rosario fino alle ore 24. Ospite in studio lo Spirito Sandro. Vabbè, avete sentito il punk rock della Paolino Paperino Band, anche in tempi più recenti, era il 2017 Banzo, con questa canzone dedicata ironicamente a Radio Maria. Sì, punk rock veramente a manetta, anche se poi si sono sempre stati abbastanza eclettici, hanno flirtato molto con lo ska, col reggae anche, quindi c'era una certa varietà sonora nella loro proposta. Per quanto riguarda il tema della canzone, non c'è moltissimo da commentare. Mi ha fatto impazzire il campionamento dell'ineffabile Don Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, personaggio insomma che dalle nostre collega di radio, ma non lo amiamo moltissimo dalle nostre parti, e conferma un po' questa tendenza della Paolino di citare direttamente punti di vista che considerano riprovevoli, come nella prima canzone la voce narrante era quella del razzista, poi veniva contrastata. Qui mettono una citazione diretta a Livio Fanzaga, indifendibile, e poi lo sbeffeggiano. Eh sì, rimaniamo, anzi, torniamo agli anni 90, 1994, con questa John Zorn alla fermata del 23 dei Santa Rita Saccascia. Buongiorno, come va, mio caro lei? Anche lei qui questa mattina, di fronte a questa fermata d'autobus. E mi dica, se non sono tanto invadente, mi dica, che autobus prende lei? Il 23! Ah, il 23! Bene, bene! Comunque, non si agiti! E mi dica, dove vuole andare lei? Con quel suo bel faccino, questa mattina con il 23. Campidoglio! Ah, al Campidoglio! Gran bel posto quello, lo conosco bene io. E mi dica, cosa va a fare lei al Campidoglio? Per caso qualche documento? E fatti i cazzi tua! È un po' di teatro dadaista, bisogna dire la verità, questo brano dei Santa Rita Saccascia, Banzo, che io non li conoscevo, in questa ironia, prendendo spunto dalla musica di sperimentale di John Zorn. Sì, esatto, hai colto il riferimento, Steven, bravissimo. Allora, i Santa Rita Saccascia erano romani, attivi soprattutto negli anni 90, e musicalmente di area, diciamo, fra hard rock, metal, sperimentazione, e qui appunto prendono come riferimento il gruppo Naked City, con il quale John Zorn, con una formazione di jazzisti, reinterpretava il grindcore. Quindi abbiamo le risposte a scoppio dell'interlocutore che mimano un po' le urla di Yamatsukai nei brani dei Naked City. E anche comunque, non conoscendo l'antefatto, il brano a me sembra francamente esilarante, ecco. Sui Santa Rita Sakasha posso dire che avevano un altro brano che purtroppo non possiamo trasmettere per ragioni di tempo, che si chiama Nostalgia di Khomeini, ecco. Parlava appunto della rivoluzione islamica con i Rolling. Beh, magari lo rimanderemo più avanti a Zibaldone. Noi continuiamo, siamo sempre nel 1994 e qui troviamo un'altra cover. Loro sono i Latte e i suoi derivati, forse dopo la Paolino Paperino Band è l'artista più conosciuto di questa puntata speciale di Zibaldone dedicata al rock demenziale, la terza, vi ricordo, quindi dagli anni 90 ai giorni nostri, alla fiera Der Tufello, questo è il titolo. La fiera del tufello per tu scudi, per patata la madre scippò, e venne il catena che corcor patata, che per tu scudi la madre scippò. Alla fiera del tufello per tu scudi, per patata la madre scippò, e venne il cipolla che gli è partito al catena che corcor patata, che per tu scudi la madre scippò. Alla fiera del tufello per tu scudi, per patata la madre scippò, e venne il monnezza che ha dato due botte al cipolla che gli è partito al catena che corcor patata, che per tu scudi la madre scippò. Alla fiera del tufello per tu scudi, per patata la madre scippò, e venne il tramontana che col cric vereno cinque aperto il monnezza che ha dato due botte al cipolla che gli è partito al catena che corco er patata, che per tu scudi la madre scippò. Alla fiera del tufello per tu scudi, per patata la madre scippò, e venne il caccola che col ducro che ha sdraiato il tramontana, che però c'aveva l'amici che so venuti, hanno fatto un culo così a caccola, che c'aveva il cognato che era in fame perso, è venuto col canne mozze, ha tirato sul monnezza che con buco su una gamba ha cominciato a di anfamoni, lasciatemi sciorto, a questo apro un due come la corsa. Ma è arrivata la banda del coreano, erano tutti incazzati, se so gonfiati, se so sparati, se so bombardati. Na Cambogia! Alla fiera del tufello per tu scudi, per patata la madre scippò. Era patata, se lo conosci lo eviti. Ecco, il patata, se lo conosci lo eviti. È geniale questa alla fiera del tufello, Fausto, dei Latte e i suoi derivati. Esatto, un altro gruppo romano, quindi ne abbiamo due di fila. In questo caso, fra l'altro, un gruppo nato da dei fumettisti, perché sia Lillo che Greg erano fumettisti, poi vengono licenziati, siamo all'alba degli anni 90, decidono di formare un gruppo demenziale, appunto Latte e i suoi derivati, l'acronimo direi che spiega tutto, perché ovviamente LSD abbastanza significativo, e pubblicano un primo album con questa gradevolissima cover rifacimento di Alla Fiera dell'Est di Brando Ardi, intitolandolo Greatest Hits, anche se in realtà è il primissimo album, quindi diciamo che erano tutti grandi successi. E naturalmente il gruppo durerà diversi anni, poi diciamo che la carriera televisiva, soprattutto radiofonica, perché sì, soprattutto sì, sì. Sei 1-0. Sono in radio da tantissimi anni, esatto, 6-1-0 ha preso il sopravvento, il gruppo credo che faccia sporadiche reunion, però comunque ha lasciato il segno negli anni 90, anche con brani come quello che andiamo ad ascoltare adesso, che dici? Eh sì, ce l'ascoltiamo e lascio a te la lettura del titolo che insomma mi sembra sia molto lungo. Perfetto. Allora, di Latte e i suoi derivati presentiamo L'altra mattina alla fermata del tram mi sono accorto di non avere il portafoglio. Allora sono tornato a casa ed ho trovato mia moglie a letto con Nando, proprietario della trattoria Darmignottone, noto per la sua interpretazione di Only You, eseguita ruttando. Dopo essermi incazzato, mi sono accorto che avevo la tasca tagliata e quindi ho capito che il portafoglio me l'avevano rubato alla fermata del tram, che nel frattempo era già passato. Che giornata di merda. Sono andato in Rai per fare una canzone. Un sacco di persone che fanno la fila. Che fanno la fila. Che fanno la fila. Bombi di bidi bidi bombi di boom. Sono andata da Costanzo e mi ha preso con la panza. Sono andata da Corrado e nemmeno mi ha guardato. Sono andata da Mingaccia e mi ha preso sotto braccio. C'era pure un buon compagno, con lui ho fatto il bagno. All'entrata della Rai c'era sempre la Raffaella. Nel programma di Biscardi si parlava di miliardi. Quando ho chiesto di cantare mi ha mandato a cagare. Tipo a Bauch ce n'è uno, tutti gli altri sono nessuno. vabbè, avete sentito che è subito partito dopo quel peculiare brano dei Latte e i suoi derivati, dove il titolo è molto più lungo del brano in sé. È partito subito Leoni di Lernia, inconfondibile, con un brano dance degli anni 90, quello che forse la maggior parte di voi ricorderanno, ai tempi in cui Banzo, Leoni di Lernia. Il brano è Pippo Baudo Way, una cover di Ice MC del 1995. Erano gli anni in cui Leoni di Lernia appariva spesso in TV al programma di Fabio Fazio, come si chiamava quello, quelli che il calcio. Esattamente. Sì, Steven, brevemente volevo fare complimenti a Fausto per la sua strepitosa recitazione del titolo del brano di Latte e suoi derivati. Poi, passando a Leone, lo avevamo trasmesso anche nella prima puntata della nostra serie di monografici sul rock demenziale, appunto perché nel suo caso è veramente un eroe dei due mondi, con una prima parte di carriera improntata sul rock, sempre in tranese, e una seconda, per la quale molti in più lo conoscono, tutta dedicata a cover e parodie di brani dance. Questa era la famosissima Think About The Way. Chi era in giro a metà anni 90 non può non conoscere, probabilmente anche persone più giovani. E volevo sottolineare che tutta la gag sulla frase del fare le file in Rai, non faccio file e così via, parte dal testo originale che dice So find the feeling, e Leone l'ha trasformata in questo modo. È un genio. E in questo senso anche straordinario, per fare un altro esempio, il brano di Africa Bambata, Pupu Nanny, che nella versione di Leone diventa puttanate. Vabbè, poi Leone comunque in quegli anni ha brani veramente su chiunque, su Saddam, ne ricordo uno, poi ce ne sono, vabbè, comunque insomma, potremmo fare una puntata a Leone di Lernia, insomma. Magari lasciamo quest'idea macerare un po' e poi magari ci ritorniamo sopra più in là, Banzo. Noi andiamo avanti perché il tempo stringe, siamo sempre nella seconda metà anni 90, nel 96, anche se la versione più recente del 2009, Pane e prosciutto di Titta, sentitevela qui. Pane, 2 etti di crudo, compro venendo da te. Voglia di essere nudo, sentirmi felice anche senza un perché. Guardo le stelle nel cielo, voglia di andare lassù. Dopo mi immergo nel pelo e di andare sulle stelle non mi importa più. L'alba passerà, vibrazioni positive. L'alba passerà, metti addosso l'allegria. L'alba passerà, che mi piace da impazzire, le papille gustative rifornisce di freschezza e fantasia. Ah, pane, 2 etti di crudo, poi un uovo sodo per me. Prendo lezioni di judo per essere più tonico a letto con te. Chiamo il telefono amico, bianco perché non ci sei. Parlo col prete e gli dico che non posso esistere senza di lei. No! L'acqua passerà, vibrazioni positive. L'acqua passerà, mette addosso l'allegria. L'acqua passerà, che mi piace da impazzire, le papille gustative rifornisce di freschezza e fantasia. Rifornisce di freschezza e fantasia. Pane, 2 etti di crudo, e poi mi immergo nel pelo. Pane, 2 etti di crudo, e poi mi immergo nel pelo, pane due etti di crudo, e poi mi immergo nel pelo, pane due etti di crudo, e poi mi immergo nel pelo, pane due etti di crudo, pane due etti di crudo, pane due etti di crudo, pane due etti di crudo, e poi mi immergo nel pelo. Dalla dance siamo ritornati al rock, il rock di Titta, pane, prosciutto, banzo e duetti di prosciutto crudo, qua insomma subito al volo bisogna chiederli. Questa canzone, Steven, in provincia di Ravenna era un inno, francamente, la conosceva tantissima gente perché Titta a Ravenna era un mito locale e questo forse era il suo brano più conosciuto o comunque uno dei più conosciuti. C'è molto da dire sul testo, mi sembra abbastanza chiaro di cosa parla. Comunque volevo sottolineare che Titta, nonostante le sue canzoni parlassero molto spesso di sesso da un punto di vista schiettamente maschile, aveva anche un numeroso pubblico femminile e pur non essendo quello che definiremmo un cantante impegnato, ha spesso preso difesa, diciamo, dei diritti degli omosessuali, insomma, in un paese come l'Italia non è mai del tutto scontato, ecco. Sì. Purtroppo è venuto a mancare nel luglio 2020 a solo 51 anni, è stata una notizia che ci ha colpito tutti durissimo nella zona di Ravenna. Aveva partecipato anche nel 2009 a un provino di X Factor venendo sbeffeggiato da Morgan. Io personalmente preferisco Titta. Ecco, bravo. Se mi chiedi, anche solo per ragioni affettive. Bravo, bravo. Ricorderei che il brano nelle prime edizioni del 96, la versione originale, era uscita accompagnato con Le fecce tricolori. Ecco, non ho letto male. Esatto. Banzo, andiamo avanti, troviamo un altro brano. Fine anni 90, ci stiamo avvicinando davvero ormai al nuovo millennio. C'è Gianfranco Marziano, prima di entrare negli anni 2000, con questa canzone del 99, Gente in merda. Ma è qua che ci sta. Ci sta la gente in merda. Certa ma certa entrate e appiccicatevi, ammazzate. Scusate, ma qua che si gioca? A 61 e a 50. Certa sicura giocate, passate accorti alle ingappate. Io volevo a diventare uno scienziato, invece m'ha già caputato. E mo sto intanto mi è sana via. Io volevo a diventare un astronauta, invece sono disoccupato perché mi agio a debuttato. Però una volta di queste lo so, voglio commettere una sciocchezza con un giornale di scostumatezza annanzi scuola elementare. Lo so, mi ho fatto vecchio e mo tengo una coscia smersa con tutta che tengo o male cor. A prima mattina riesce mal bon. Scusate, ma che si fa? Si fa una fine merda. Certa, tra siti sanno pure puttana e ci verrimmo tutta brignata. Vabbè, bisogna dire che è proprio un marziano questo Gianfranco Marziano, che io non conoscevo, quindi Banzo, spiegaci subito chi è. Beh, una figura profondamente irregolare, credo che si sia capito anche da questi due minuti scarsi che finiscono troncati, è proprio quella la fine del brano. Sì, salernitano, classe 64, aveva assunto uno stato di culto grazie a cassette duplicate registrate in casa, immagino soprattutto in zona Salerno ma anche in altre zone della Campania. È difficile parlare di lui in poche parole perché si vede che appunto è un irregolare assoluto, questa incisione completamente approssimativa. In una sua biografia ho visto: scrive canzoni molto belle cantandole e suonandole molto male, e mi sembra una definizione che solo da questo esempio corregge perfettamente. Poi ho sentito altre cose sue ed effettivamente sì, è molto difficile descriverlo, bisognerebbe dedicargli più spazio. Volevo chiudere ricordando che molto spesso indulge nella volgarità più gratuita, ma lo fa quasi con candore. Il titolo del disco da cui è tratto, disco insomma, da cui è tratto questo pezzo è Fammi due bucchini, oi. Vabbè, noi adesso andiamo avanti e entriamo negli anni 2000 e troviamo il brano sicuramente più conosciuto di questa puntata. Lui è Corrado Guzzanti. Na na na na, vieni con me, amore, sul grande raccordo anulare che circonda la capitale, e nelle soste faremo l'amore. E se nasce una bambina poi la chiameremo Roma. All'uscita 25 c'è a Laurentina. Bruno l'infame ha cambiato gestione, e Prosciutto è più buono da Sergio dietro la piazza, ma non te fa lo scontrino. All'uscita dell'Aurelia c'è Casalotti Boccea. Fai la conversione e c'è il tabacchi notturno, se chiuso giù al controviale c'è il distributore che te frega il resto. Il distributore, ma te frega il resto. E allora vieni con me, amore, sul grande raccordo anulare che circonda la capitale, e nelle soste faremo l'amore. E se nasce una bambina poi la chiameremo Roma. Dal verano c'è la rampa di Tangenziale. Devi stare attento, buttate in tempo a destra, te puoi ritrovare sulla Roma l'Aquila. Occhiar cartello, occhiar cartello. All'uscita 29 c'è Acilia Casar Palocco. Dietro il bar d'Enzo c'è il centro commerciale, dice Tiziana che non c'è sta a bucca pazza. C'è sta il cartello, vatta a fidà, son buoni tutti. A metteci una scritta sul cartello, son buoni tutti. So buono pure io a mettere la scritta sul cartello. Amore, amore, voltata a quella prima, e sei stata risucchiata dalla cassia. Chissà adesso con chi stai, chissà se sei arrivata mai. Adesso c'è Sabrina che lavora all'autogrill, dove faccio il pieno di benzina per fa un metro sulla Tiburtina. E se nasce una bambina poi la chiameremo Roma. All'uscita dal Flaminio c'è Abisse. Per via due punti c'è un pezzo contromano, meglio la murta dell'ingorgo, ci vuol di vecchiaia, c'è poi morì di vecchiaia. L'amore finisce sul grande raccordo anulare, na na. La storia finisce sul grande raccordo anulare. Na na. finisce sul grande raccordo anulare. Vabbè, dai, è indimenticabile sicuramente per molti questa canzone. Corrado Guzzanti, era una registrazione televisiva che poi è stata pubblicata su disco nel 2001, Fausto. Sì, Steven, ne esiste anche una bellissima versione torrenziale nella durata, eseguita dal vivo al Circo Massimo di Roma, in una circostanza che tu credo ricorderai bene, nell'estate del 2001 per lo scudetto della Roma, naturalmente. Sì. In quel caso lì ci fu proprio il duetto fra l'originale e l'imitazione. Qui abbiamo Corrado Guzzanti che, dopo aver incarnato diverse identità nei programmi di Serena Dandini come Rocco Smitherson, che anche lui aveva inciso un disco in questa identità, nel programma L'Ottavo Nano appunto lancia l'idea di raccontare Roma, diciamo uscendo, ecco, uscendo dal centro storico che Venditti aveva affrontato già diverse volte, e appunto avventurandosi lungo il grande raccordo anulare. E quindi questa torrenziale cavalcata pianistica che ovviamente cita in vari passaggi i più famosi brani del cantautore romano. Grande Corrado Guzzanti. Andiamo avanti, troviamo un'altra band che sia abbastanza conosciuta. Parliamo dei Jam Boy con questa Holly e Benji, 2002. Dall'altra parte del mondo, da un calcio ad un pallone rotondo che schizza in aria, diventa ovale, fa strani effetti, non mi sembra normale. Dei bambini che giocano a pallone, quando mai li hai visti in televisione? Gli stadi pieni, rimango perplesso, il telecronista è sempre lo stesso. Io credevo che un giocatore stesse concentrato solo sul pallone, invece questi hanno lunghi flashback, ma l'avversario in quel momento dov'è? Mai non li è Benji, tutto è normale, anche il Giappone vince il mondiale. Mai non li è Benji, nessuno è mai stanco, ma quanto cazzo è lungo sto campo. Chilometri, una trentina, costruito in cima a una collina. Loro non sanno calciare come noi, usano sempre posizioni idiote, poi riescono a tirare certe fucilate che volano raso terra per 10 puntate, rimbalzando sul palo il portiere, la palla non riesce a trattenere, e come accada ancora non so, sfonda la rete, il muro dietro e fa gol. Mai non li è Benji, tutto è normale, anche il Giappone vince il mondiale. Mai non li è Benji, nessuno è mai stanco, ma quanto cazzo è lungo sto campo. Chilometri, una trentina, costruito in cima a una collina. Delle risposte ancora io cerco, forse sta gente ha lavorato in un circo, corre, salta, vola, è mai una storta, dopo tre ore all'orizzonte spunta la porta. Mai non li è Benji, tutto è normale, anche il Giappone vince il mondiale. Mai non li è Benji, nessuno è mai stanco, ma quanto cazzo è lungo sto campo. Ecco la new team che schiera in campo la formazione 1-1-1 con Holly, Tom e Benji. Fischio d'inizio ed è subito Tom che passa la palla a Holly, il quale dribbla un avversario, poi ancora un altro. Ma che succede? Mentre corre guarda l'ora e dribbla un altro avversario. Ora si ferma a prendere un caffè, ne dribbla un altro, si prepara al tiro, si sta preparando. Sì, sì, sta chiaramente per tirare, me lo sento, adesso tira, ha la gamba alzata e finalmente tira! È un tiro incredibile, signori. La palla sfreccia, va a destra, poi a sinistra, poi sale, esce dall'atmosfera, poi riscende, va sotto terra, torna fuori, sta per entrare in porta, il portiere si tuffa! Così finisce questa canzone dei Jam Boy, che a dire la verità a me non sono affatto mai piaciuti. Faust e torna come sempre ancora protagonista la TV in questi primi anni 2000, come anche prima negli anni 90. Sì, Steven, la TV è assoluta protagonista. I Jam Boy, che sono di Bologna, ricordiamo, sono i classici adolescenti che comunque iniziano a suonare uno strumento e che fanno cover goliardiche delle sigle dei cartoni, che diciamo sono la musica, diciamo, che conoscono meglio, ecco perché ovviamente dopo i lunghi pomeriggi passati davanti alla televisione, davanti a Bim Bum Bam, programmi simili, e loro iniziano la loro carriera proponendo appunto versioni rivedute e corrette, tipo brani come Orgia Cartoon, diciamo abbastanza espliciti fin dal titolo, oppure Ammazza Cristina, quindi i titoli sono questi. Poi cominciano a crearsi un nutrito seguito, molto in provincia, comunque anche nei piccoli locali, e questo è uno dei loro primissimi brani autografi, quindi che non è una parodia, però diciamo racconta cosa c'è dietro a una famosa serie televisiva, evidenziando ovviamente l'assurdità che permeavano l'animazione giapponese dell'epoca, degli anni 80 soprattutto. Quindi in questo caso abbiamo un famosissimo cartone animato che naturalmente non ha riferimenti precisissimi alla vita reale e alle leggi della fisica per come le conosciamo. Eh sì, comunque speriamo che il Giappone non vinca mai un mondiale di calcio, almeno finché siamo in vita noi. Andiamo avanti, 2003, i Profilax, Pornografia, unica via, messaggio molto chiaro. Ma non cambierò canale se mi date del maiale, ce lo so. Il mio mito era Jonol, la mia regina era Moana. Seghe in loro onore mi farò. Per modello Peter North, Rocco Siffredi e Bob Malone. Ce l'avessi io quelle mazze, ma te che? Mi puoi anche giudicare, tanto io non mi ti inculo. Di sicuro sei più marcio tu di me. qui siamo tornati a livello musicale al rock, visto che insomma la nostra puntata è rock demenziale. Qui assolutamente i Profilax, pornografia unica via, ha un testo abbastanza esplicito. Banzo, io non conoscevo i Profilax, illuminaci tu. Non conoscevi i Profilax? Sono famosissimi e a Roma sono assolutamente delle star, mi verrebbe a dire, sono venerati. Io non li amo particolarmente perché sono anche gusti, diciamo che li trovo un po' insistenti, un po' grevi nella loro poetica, della quale questa canzone è abbastanza rappresentativa. Hanno una carriera molto lunga, cominciata nel 1990, all'inizio della una qualità di incisione molto amatoriale. Qui erano brano tratto dall'album Il Quinto Escremento del 2003, qualità sonora era già eccellente. E nulla, cioè questa ossessione per il sesso descritto in un modo molto molto greve, ecco, io diciamo che non voglio essere moralista, perché abbiamo mandato una canzone che parla di leccare la figa, ecco, però diciamo che i Profilax un pelino mi arrivano a stancare, ecco. Comunque diciamo che hanno composto anche altri brani, altre tematiche, una Attack de Merda sugli autobus romani, ecco magari, per magari su quello hanno ragione. Comunque noi andiamo avanti e troviamo le Wooden Volevo Chicks. Volevo ricordare, dimmi. Steven, prima di passare ai prossimi artisti, che i Profilax, membri dei Profilax, hanno partecipato anche ad altri progetti, soprattutto all'inizio degli anni 90, come i Pizza e Fichi, che facevano anche cover demenziali come Jump dei Van Halen, che diventa Zompa, e i Sanculamo, noti per la verve anti-ecclesiastica ferocissima. C'è anche una canzone su Wojtyla che io non avrei nulla in contrario a trasmettere, però credo che dopo ci scomunica il mio fanzaga. Andiamo ad ascoltarci le Wooden Chicks con questa Non mi chiedermi. Ciao, mi piacerebbe avere un telefonino che manda messaggini con tantissimi caratteri, così potrei scriverti ti amo con un milione di O e verrebbe presto a poco, così ti amo. Non mi chiedermi di avere un equilibrio anche in quei giorni. Non mi chiedermi di farti lo stufato quando torni. Non mi chiedermi il teorema di Pitagora, non ho la licenza media in prima, mi bocciarono. Non mi chiedermi di avere gambe lisce come seta. La ricrescita è una piaga e non mi bastano alla meta. Ci vorrebbe un diserbante dedicato, io ce l'ho. Spero solo che rispetti il mio pH. Girls, man, quanta spontaneità nei miei modi schietti. Bullshit. Le mie movenze in confettini perfetti. So come si scrive. Non mi chiedermi se ho sexy più la fronte o le gengive. Non mi chiedermi di coniugarti i verbi, non li so. Se li avrei saputi molte li imparavo. Non mi chiedermi di amarti con le tecniche orientali. Non cercare di sorprendermi all'incrocio dei miei pali. Non mi chiedermi di rivelarti dove è il punto G. Con il mio alfabeto arrivo fino a F. Noi siamo un top e dalle vedute strette. Girls, man. Sinceramente non capisco chi ci piace, ma nei nostri playback ci mettiamo l'anima. Tipico prototipo di donna libera, tutta acqua e sapone, non ti dai nemmeno un'aria. Tu così lucida ed estera, tu che sei più semplice d'un mosaico con una tessera. Tu hai più colori di una gerbera, Venere berbera, tu genuina come il Barbera. Tu che non mi dai mai l'idea d'aver la minima idea di quel che dai. Se saprai parlare senza farti diventare rosso, se dovrei vestire i panni senza toglierli di dosso, se potrei dire cose meno imbarazzanti le direi, ma non sarei più gradita in una girl. Quanta spontaneità nei miei modi schietti. Bullshit. Le mie movenze con pettini perfetti. Girlsman. Oh, quando uno è naturale, naturale. Bullshit. Tra l'altro questo è un motivetto, niente male. Girlsman. Belle ragazze collocate perfette. Bullshit. Gagliarde top e dalle vedute strette. Girlsman. Sinceramente non capisco chi ci piace, ma Bullshit. questo brano molto soul, con una voce conosciuta, la partecipazione, io ho riconosciuto quella di Frankie Hey Energy e forse Faust, insomma, Wooden Chicks, ma in realtà la voce, la front woman di questa band, ai più magari suonerà o riconosceranno, hanno riconosciuto quella voce. Sì, Steven, si tratta di Paola Cortellesi. Paola Cortellesi che in questo caso appunto assume tre identità virtuali, sarebbero Pera Williams, Anguria Stark e Renetta Golden, quindi c'è anche un pochino di trentino nelle Wooden Chicks perché è purissima Val di Non, e quindi ovviamente erano tre diversi travestimenti ed era un progetto musicale che la Cortellesi aveva realizzato insieme con Rocco Tanica, quindi tornano ancora ieri le storie tese per l'ennesima volta nella storia del rock demenziale italiano, e questa era ovviamente una parodia anche molto riuscita dell'invasione di girl band e di boy band a cavallo degli anni 90 e anni 0, quindi dalle Spice Girls fino all'All Saints oppure la Destiny's Child, che direi che sono forse più il riferimento di questo brano, e con il classico featuring con rapper, in questo caso ovviamente con un rapper italiano che è il mitico Frankie. Peccato che non sia mai uscito l'album, perché Rocco Tanica con la Cortellesi avevano realizzato diversi brani, trasmessi anche in un programma TV e anche a Sanremo, perché la Cortellesi partecipò con Rocco Tanica a Sanremo 2004 come ospite fisso, però quel Sanremo ebbe un scarsissimo successo d'ascolti e probabilmente l'album venne definitivamente messo da parte. Noi andiamo avanti, troviamo gli X-Mary con questa zucca. Quiero ballare con zucca. Quiero bailar con zucca. Voy a bailar con zucca. Anch'io diventare re del caffè vale dirio. Quando ballo con i piedi di Dio. Io voglio zucca a Rio. Zucca, oh zucca. Ma insomma, spiegaci chi è Zucca, perché io adesso sono curioso. Chi è Zucca? Esiste davvero? No, non lo so. I testi degli X-Men non hanno mai avuto senso, Steven. È un dato di fatto. Sono, credo, in maggioranza totalmente improvvisati dal cantante Cristiano. E, spiccano per la loro ingenuità assurda e sono una delle ragioni per le quali gli X-Men sono un gruppo così straordinario. Attivi più o meno dal 94, probabilmente nato come gruppo liceale o giù di lì, da San Colombano all'Ambro, provincia di Lodi, ci sono spesso riferimenti al territorio, sono dei pazzi assoluti che spesso mescolano generi, qui c'è una specie di bossa nova hardcore, molto spesso di samba hardcore, chiedo scusa, molto spesso si rifanno alla bossa nova, ci sono canzoni pop, rock, e molti altri stili, a volte hardcore, quindi un grandissimo eclettismo al servizio di una ispirazione che molto spesso, come ho detto, sembra quasi totalmente improvvisata. Grandi amici dei Marchigiani Camillas che abbiamo insomma trasmesso in tutte le salse a Zibaldone perché li amiamo molto, quindi anche in questo caso c'era un collegamento. Hanno anche pubblicato insieme un mini al nome X-Marillas nel 2013, poi la cosa non ha avuto seguito. Mi risulta che gli X-Mary siano ancora attivi, anche se da vari anni non stanno pubblicando niente. Io sono in paziente attesa. Era del 2006 il brano che ci siamo ascoltati, passiamo al 2011 dove troviamo i Giuda, Ragazzi sono una sedia. È finita la commedia, ragazzi! Io sono una sedia. Io sono una sedia. Non morirò di media. Ragazzi, io sono una sedia. Io sono una sedia. È una tragedia il fatto che non ci sia il mio disturbo su una pagina di Wikipedia. Ora come si rimedia, ragazzi? Sono una sedia. Sono una sedia. Forse sarà successo per qualche medicina, che come Kafka mi son svegliato strano una mattina. Non ero però uno scarafaggio, no, ma una bella sedia in legno di faggio. Con me una donna non può più accomodarsi, ora i familiari mi usano per accomodarsi. Ma se mi spacco la prospettiva è migliore, perché senza mutuo il falegname costa meno del dottore. Capirai bene che evito le seghe, non mi possono rappresentare al museo delle cere. Non sono il cattivo, mi chiamano gamba di legno. Mi impegno con l'ingegno, ma la mia testa è di legno. Nel cervello ho davvero segatura. Mi vogliono in terapia per una seduta. Ed annoiarmi lì non è una buona scusa, perché sono uno che se si stufa si brucia. Sopra di me la capra campa, sotto di me crepa manco fossi una panca. Chi manca? Aggiungi un posto a tavola. Volevo essere commensale, ora mi monti dalla scatola. È finita la commedia, ragazzi. Io sono una sedia. Io sono una sedia. Non morirò di media. Ragazzi, io sono una sedia. Io sono una sedia. È una tragedia il fatto che non ci sia il mio disturbo su una pagina di Wikipedia. Ora come si rimedia, ragazzi? Sono una sedia. Sono una sedia. In assetto, la guerra mi assetto. Bello. Ho quattro gambe, ti spacco il setto. Io ho il retto. Ti siedi scomodo, se ci sono io non puoi più fare il tuo comodo, no. Personaggio scomodo, tu che cazzo vuoi? Adesso non mi serve più Playboy, fanculo ai nightclub. L'idea è che ora vado a vedere le sedie nude all'IKEA. Sei grassa! Non sederti, mi sbricioli, specie se nella tasca hai un sacco di spiccioli. Ai piedi gommini contro gli sdruccioli. Il mio corpo non va, ma vado di corpo e cago trucioli. Ma ho ancora atteggiamenti simili agli uomini e cerco di possedere beni mobili. Dici non puttanone, non sto per attrazione, perché ora non sniffo colla ma silicone. Se mi si staccasse un pezzo per un incidente sfortunato, lo sostituirei con metallo pregiato. Mi chiederesti: e il legno, sei cambiato? Quello? Sì. È stato compensato. La mia musica ti tedia. Fa niente, sono una sedia. Sono una sedia. Se il Caeda ci assedia, fa niente, sono una sedia. Sono una sedia. Sarò un kamikaze che si insedia. Ma da sedia. Ma da sedia. Qual è la mia altezza media? Un metro. Un metro. Sono una sedia. Sono una sedia. Sono una sedia. Sono una sedia. Sono una sedia. Ecco, finisce così questa canzone di lui, si chiama in realtà Judas Trons Lover. Ragazzi, io sono una sedia. Era il 2011. Banzo, prima insomma, abbiamo parlato tanto di TV, poi è apparso anche il cellulare nel brano cantato da Paola Cortellesi. Qui insomma invece entrano anche altre realtà. La tecnologia comunque è sempre presente anche nel rock demenziale o la musica demenziale, che dir si voglia. Sì, allora Steven, Judas Trons Lover mi serve per introdurre il filone dell'hip hop demenziale, che soprattutto viene anche chiamato LOL rap, anche se non è un concetto esattamente sovrapponibile, ma il tempo è tiranno, che si è diffuso moltissimo grazie a YouTube, perché questa è una canzone, il canale di Judas Trons Lover ha 421 sottoscrittori, questa canzone ha 276.000 views, quindi è il suo brano di maggiore successo, non è molto noto, io non so moltissimo su di lui. Questa canzone l'ho scoperta per caso, personalmente l'ho adorata per il paradosso, so che tu non l'hai apprezzata particolarmente, però appunto dicevo, c'è tutto un filone di gente che usa un linguaggio molto lontano da quello del rock, appunto quello dell'hip hop, per proporre contenuti variamente demenziali. E in questo senso vorrei citare MC Cavallo, che va in giro con una maschera da cavallo. Il brano più famoso è Me li presti 2 chili di culo, con un riferimento ancora alla Branduardi nel campionamento, mi sembra. E poi ci sarebbe ovviamente Bello Figo, che mi sarebbe piaciuto moltissimo trasmettere, ma il tempo è tiranno, personaggio noto per la canzone Non pago affitto, ma che soprattutto parla di figa, onestamente, ben noto per quella canzone lì, ma le canzoni di Bello Figo parlano spesso della sua ossessione per le donne, in particolare per le donne bianche. Eh sì, è vero, è vero. E andiamo avanti, rimaniamo però nel 2011 e troviamo una band che in realtà avevamo già proposto tempo fa a Zibaldone, parliamo del duo bucolico, con questa canzone intitolata Se sposata la mia zia. Sono andato a cogliere funghi con Angotti, perché c'era il matrimonio di mia zia. Ne abbiamo colti 30 cesti, belli grossi ed abbondanti, mi commossi nel vederli lì davanti. Oh. Ma Langotti sorrideva sotto i baffi, mentre il cuoco sapientone li impanava. Sulla tavola imbandita c'era un bue caramellato e un porcello cotto a mollo nel sacchè. Se sposata la mia zia, 70 anni di clausura, verginella la sua prima giarrettiera, sotto l'abito da sposa la pancera. Dottor Gibot, digestivo Antonetto, ecco il cuoco con la torta di funghetti, proprio quelli che ho raccolto con Angotti. Sulla cima della torta c'è un funghetto candelina, fa venire tutti quanti la colina. La sposina zoppicante s'avvicina, della torta vuol mangiare la ciliegina. La inghiottisce con il vino e poi si strappa il reggiseno e mostra tutto il perizoma rosso-nero. Se è sposata la mia zia, 70 anni di clausura, verginella la sua prima giarrettiera, sotto l'abito da sposa il perizoma. Amsterdam. E Langotti adesso ride come un joker, la ciliegia della torta era un peyote. La zietta allucinata nuda fa una rovesciata, sostenendo d'essere figlia di Pelé. João Gilberto, Ronaldinho, calcia forte una zuppiera con il piede. Lo sposino sbalordito non ci crede e prende in pieno un lampadario che si stacca dalla sede e lo schiaccia a terra come un millepiede. È già vedova mia zia, 70 anni di clausura, psichedelica la sua luna di miele, sotto l'abito la maglia del Brasile. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Digestivi Antonetti. Duo bucolico, sei sposata la mia zia. Fausto, parliamone un po' di questo duo bucolico, loro sono molto bravi. Sì, Steven, qui torniamo in Romagna, quindi siamo veramente i nostri eroi di casa che sempre sosteniamo molto molto volentieri. Abbiamo già trasmesso un loro brano per lo speciale delle canzoni dell'estate. Qui andiamo un po' indietro del tempo, andiamo nel loro primissimo album, Bucolicesimo, del 2011, che appunto mescola cantautorato sghembo, reggae, e in questo disco che c'è il loro brano forse più noto, che è Tempi d'Oro, e anche questo appunto Si è sposata la mia zia. È un cantautorato un po' isterico naturalmente, che mescola appunto riferimenti diffusi nel tempo, naturalmente anche ricordi marchi come Dottor Gibot, quindi il contrasto temporale, questa immagine appunto di una sposa piuttosto anziana, con una sfortunata vicenda legata anche agli stupefacenti, quindi c'è questo riferimento anche alle droghe, così come in Tempi d'Oro era l'avventura di due fricchettoni. Quindi diciamo che nella loro prima produzione abbiamo queste tematiche che si rincorrono, e il duo bucolico, ricordiamo, è sempre attivissimo. Loro fra l'altro collaborano molto con gli ex Camillas, con i quali hanno formato il gruppo dei Superman, che però ancora non ha pubblicato un disco, però si esibiscono in Romagna spesso e sono un loro assiduo spettatore, questo lo ammetto. Andiamo ad ascoltarci un altro brano, 2013, Timidamente Io, di Ruggero dei Timidi. Anche lui era già stato passato qui a Zibaldone, non ricordo quando, non ricordo come, ma ce lo andiamo a sentire, Ruggero dei Timidi. Quanto è stata amara quell'estate al mare senza far l'amore. 20 anni fa io ti lasciai sola su quella battigia. Tu che mi dicesti, ma perché mai fuggi? Di che hai paura? Io però scappai per quel tuo modo strano che avevi di eccitarti. Spruzzavi acqua dalla vagina ed io mi spaventai. Ora lo chiamano squirting, ma ai tempi non sapevo, credevo stessi male. Spruzzavi acqua dalla vagina ed io mi preoccupai. Mi visita un dottore, mi disse non è niente, è nettare d'amore. Cara, ti ho pensato spesso in questi anni e voglio farmi perdonare. Torneremo io e te su quella spiaggia e stavolta non scapperò. Ora ho capito tutto, mio nipote mi ha mostrato dei filmati sull'internet che altre ragazze la fanno quella cosa lì, e tanta anche, tanta, questo perché spruzzare acqua dalla vagina adesso è assai in voga. Stanotte voglio che rimani, spalanchi le tue gambe e vai con lo tsunami. Timidamente io, umidamente tu, squisitamente squirting. Timidamente io, umidamente tu, come dice anche in conclusione di questo brano Ruggero dei Timidi Banzo. Ecco, Ruggero sì che è uno forse dei più conosciuti tra i nuovi artisti che fanno musica demenziale ed ironica. Sì, e anche lui si è reso famoso attraverso YouTube, perché qui appunto comincia a saltare abbondantemente l'industria discografica. Quando c'è un progetto si carica il video e si spera o si cerca che diventi virale. Allora, Ruggero l'avevamo già trasmesso, io credo sia che per le canzoni d'estate che per le canzoni natalizie, sì, perché è vero, hai molto attivo, è molto attivo sulle canzoni a tema. Allora, pseudonimo di Andrea Sambuco da Udine, aveva alle spalle anche una carriera da cantautore più serio, diciamo. Poi è stata questa riconversione, e al di là del fatto che Ruggero è noto per i testi che parlano molto di sesso, insomma, avete sentito la canzone. È interessante il contesto che sta attorno a questo nucleo tematico, che è quello della musica, diciamo, sentimentale, confidenziale, anche dal nome stesso del progetto Ruggero dei Timidi, con molte citazioni del pop romantico italiano degli anni 70, che ne so, i Santo California, gli Alunni del Sole. Per esempio si sente molto in un'altra canzone che è Torna, sottotitolo A Udine, che è una canzone che non contiene, perché lui è di Udine, che non contiene riferimenti sessuali, ma appunto a livello di arrangiamenti è proprio pop romantico settantiano italiano della più bell'acqua. Eh sì, andiamo avanti, ci avviciniamo davvero agli ultimissimi anni, ora siamo nel 2017 con queste focaccine dell'S lunga degli OEL, spero di pronunciarlo correttamente, poi insomma semmai mi correggerete, andiamoci ad ascoltare il brano. Oggi vi racconto una storia, una storia vera, una storia di vita, una storia fantastica. Mi ricordo quel giorno come se fosse ieri. Forse era ieri. Mia madre era tornata dall'S lunga. Sì, dall'S lunga. Aveva qualcosa con lei di insolito. Strano. Io mi chiedevo che cosa fosse. Non lo sapevo. Poi ho visto che erano rotonde. Mi sa proprio che erano le focaccine. Ho detto mamma mi ha comprato le focaccine. Lei mi ha detto certo, certo, certo, certo, certo. E allora ho detto, cavolo, mi sa che sono buonissime. E allora ne ho assaggiata una ed era veramente buonissima. Le focaccine dell'essere lunga, le focaccine dell'essere lunga, sono buonissime, si sono buonissime. Non ne posso fare a meno, chi se ne frega del Don Pero, tanto ci sono le focaccine dell'essere lunga, che sono buone, anzi oso dire super buone. Un tè il giusto, che ti facciano sentire il gusto. Da quel momento mi sono innamorato delle focaccine dell'essere lunga, dell'essere lunga. Mi sono innamorato delle focaccine dell'essere lunga, delle focaccine dell'essere lunga, delle focaccine dell'essere lunga. Quanto sono buone sono, Dio lo sa. Quanto sono untose solo Dio lo sa. Sono un tema, mi piacciono le focaccine. Me le gusto, me le gusto, me le gusto. Beh, Banzo, dici qualcosa tu, perché io non sono solito mangiare le focaccine dell'esse lungo, devo dire la verità, vivendo anche in Spagna, e soprattutto non so chi sia questo O e L, quindi svelaci l'arcano, per favore. L'arcano, fosse facile. Allora, neanch'io ho mai provato le focaccine dell'esse lunga, quindi la curiosità persiste. Allora, questo è un brano pubblicato nel giugno 2017 che arriva in testa alla classifica Viral 50 di Spotify Italia, e non si sa chi sia OL. Allora, Aurora 33 Giri, che è un sito fondamentale che abbiamo raccomandato varie volte, se non lo seguite fatelo, ha fatto una bellissima indagine proprio dove cerca di capire chi sia l'autore, e alla fine sembra che, qui faccio spoiler, ci sia dietro Claudio Cecchetto, anche se la cosa non è confermata, e che OL sia semplicemente Leonardo Cecchetto, cioè suo figlio, che apparirebbe in due frammenti del video della canzone, e appunto OL è Leo al contrario, quindi questo è abbastanza intuitivo, aveva pompato la canzone quando è uscita, e insomma il mistero sembra essere questo, ma poi chissà, ecco. È interessante musicalmente, oltre ad essere una mia ossessione personale, e se mi fate scegliere le canzoni un po' ve tocca, oltre ad essere una mia ossessione personale, è interessante perché, come dicevo prima, includiamo anche il rap e l'hip hop negli stili coperti, e qui abbiamo la trap, il genere che adesso va per la maggiore già da qualche anno, la musica del tempo, mi viene a dire che incarna lo spirito del tempo, e questa a me sembra chiaramente una parodia perché non c'è nessuna intenzione di serietà, ne vengono esasperati anche alcuni tratti come l'uso quasi grottesco, anzi togliamo il quasi, dell'autotune, sì, che sì, caratterizza molto la trap. Ecco, comunque speriamo che i tempi cambino in fretta, perché così magari ci leviamo dalle palle anche la trap, però chissà, forse... Non fare il boomer! No, ma soprattutto ho paura di sapere cosa arriverà dopo, ecco. Comunque, andiamo avanti, siamo davvero ormai agli sgoccioli di questa puntata di Zibaldone, di questo speciale in tre puntate dedicato all'invasione, alla famosa invasione dei dementi in Italia, ossia al rock, alla musica demenziale. Troviamo adesso un artista che si chiama Tu Nonna, eccolo qui. Mia nonna abita proprio dietro casa mia, o va al mercato, la trovi in farmacia. Mia nonna ha detto che mi vede un po' sciupato, ha dato 30 euro per il gelato. Quanto bene essere una rossa, non se ti sposi il figlio poi lo chiami come me. Mia nonna rosica, se la domenica non vado a messa per rispondere alle mail. Pura da questo tu riesci a sembra seria, quando a 40 gradi chiedi già e la canottiera, ti scordi tutto e ricordi inutilmente che ride e pianga a caso certe volte. Quanto bene essere una rossa, se qua te. Quanto bene a sé quella rossana che mi allappa tutto e guardavo dai cantre. Nonna, non piangere, devo più crescere. Anche questo brano era del 2017, loro sono Tu Nonna e il brano si chiama Mia Nonna. Ecco, Fausto, qui andiamo sul rock indie e tra l'altro una band che avevamo già trasmesso in uno speciale natalizio. Sì, Steven, fra l'altro più che una band è un classico nome d'arte dietro il quale si nasconde una illustratrice e cantautrice romana, Silvia Six, con i suoi collaboratori naturalmente. E qui siamo nel suo album d'esordio, che si chiama Buono, il titolo è questo, e che ci trasporta, ecco, con le sue storie in un passato lontano, forse migliore, però non si capisce, diciamo, sicuramente migliore rispetto a questo, al presente che viviamo, che è fatto di piccole cose, di piccole disavventure quotidiane, piccole e grandi naturalmente. E poi c'è questo riferimento che è carinissimo alle caramelle Rossana, che molti di noi ricordano, credo che esistano ancora, però indubbiamente sono, ecco, un emblema. Fra l'altro ti cito un'intervista proprio della Silvia Six in cui descrive che dice: pure a me le caramelle Rossana facevano schifo, non mi sono mai piaciute ed è proprio per questo che per me sono l'emblema della nonna che ti riempie di Rossana, convinta che ti piacciono e che ci sta in fissa quando in realtà ti fanno schifo, ma le prendi e le mangi ugualmente perché le vuoi bene. E poi sì, appena si gira un attimo le sputi. E penso che sì, effettivamente le Rossana non piacevano neanche a me, quindi posso solo sottoscrivere. Eh sì, comunque insomma le Rossane, grandi momenti, grandi momenti. Andiamo al 2018, quando si formò il governo del cambiamento, come lo definirono, quello giallo-verde, altri utilizzavano un altro colore invece che il verde, il nero o il giallo-marrone. Comunque loro sono i Nano War of Steel, esce ma non mi rosica. Ecco, poi il Banjo ci dirà qualcosa su di loro perché io non li conosco. We'll be right back. Vabbè, Banzo, per favore, spiegaci qualcosa, perché al di là che io non amo molto questo genere musicale, ma questi, diciamo, insomma, possiamo dire sono fatti miei, ecco, però sveliamo un po', spieghiamo un po' questa canzone, perché sennò uno dice che cosa ci azzecca in un speciale come il nostro sulla musica demenziale. Beh, allora, c'è tantissimo da dire, cercherò di essere sintetico. Allora, innanzitutto il gruppo in Nanowar of Steel da Roma, originariamente Nanowar, si sono allungati il nome per seguire il cambio di nome dei Rhapsody, quindi c'è un filone heavy metal demenziale pieno di riferimenti a dettagli interni della scena metal che da fuori non si capiscono, devo dire. In questo filone posso segnalare anche gli Atroci da Bologna, che sono anche meritevoli. E allora, i Nanowar of Steel, appunto, spesso fanno queste canzoni con riferimenti al metal. Il metal è ossessionato dall'acciaio, hanno fatto una canzone anche su Giorgio Mastrota che vendeva le pentole in acciaio inox. Ma venendo a questo brano, perché se non si conosce l'antefatto è veramente incomprensibile. Cosa succede l'8 gennaio? Ecco, allora, a un certo punto un canale YouTube prende una canzone iraniana pre-rivoluzionaria, pop iraniano pre-rivoluzionario di Sharam Shapare, che in Iran era molto famoso, è tuttora famoso, e ha fatto anche un talent, Persia's Got Talent, però ovviamente fuori dall'Iran, ecco, per la comunità della diaspora. Questa canzone viene presa da questo canale YouTube e interpretano il testo in italiano a senso, cioè ovviamente è cantato in lingua persiana e sembra che dica questa cosa qui in italiano, tipo lascia entrare Ascanio dall'8 di gennaio, ecco. Poi non so assolutamente di cosa parli la canzone, a causa c'è anche il video, sembra una canzone d'amore, ecco. Allora, il Nanowar, in pieno spirito meme, perché appunto questo è un fenomeno, un altro fenomeno internettiano, prendono la canzone originale, loro sono un gruppo metal, la reinterpretano da cima a fondo con gli arrangiamenti metal, devo anche dire, non è il mio stile di metal preferito, ma suonano veramente bene, e appunto riprendono la canzone paro paro, però la fanno col loro stile, e appunto potete andare a cercarla, se cercate la Centro Ascanio potete risalire all'originale se non la conoscevate. Peraltro sembra che Sharam Shapare abbia anche suonato in Italia e si sia sorpreso del fatto che gli chiedessero questa canzone. Io questa cosa l'ho letta, ma non so se sia del tutto vera, sembra di sì, ecco. Vabbè, insomma, lo scopriremo solo vivendo. Andiamo avanti, rimaniamo a quel stesso 2018 e troviamo Auroro Borealo. Ecco, non l'ho pronunciato male, è proprio così, Auroro Boreale. Borealo, ecco, caspita, uno è facile che si sbagli. Villano è il titolo della canzone che vi proponiamo. Vai. Questa è Villano di Auroro Boreale. Fausto, illuminaci, perché io non so, non ho la più pallida idea di chi sia e non capisco bene cosa c'entra con rock demenziale questo brano, però insomma sono io sicuramente che non lo capisco. Beh, Aurora Borealo in realtà è uno pseudonimo, ovviamente, perché non esistono posti genitori così fantasiosi. Si tratta di Francesco Roggero, che è bresciano e ha fatto parte di tantissimi gruppi demenziali nella sua carriera, perché è partito da Il Culo di Mario, fondamentale gruppo del genere, i Super Amici dell'Occhetta Sbarazzina, che ha pubblicato soltanto un brano anni fa, e i Darozzo Crew, che sono appunto una crew rap, di rap appunto demenziale. Fra le altre cose è anche uno dei ideatori del sito Orrore 33G che citava prima il Banzo, quindi infatti a lui si deve la riscoperta di personaggi come Maria Sole, con la quale fra l'altro ha duettato credo 2 anni fa, quindi davvero personaggio poliedrico. Organizza anche in Lombardia un festival itinerante di musica demenziale chiamato Talento, che ha lanciato più o meno dopo la fine dell'emergenza Covid, quindi davvero attivissimo. I dischi in realtà non esistono in formato fisico, li pubblica solo in formato digitale. Questo brano viene da Sappi che ti ho voluto bene del 2018, suonato con la sua mitica band dei Capelli Lunghi Dietro, con la quale appunto si esibisce ormai da anni in giro per l'Italia. Vabbè, rimaniamo su Aurora Boreale, perché c'è anche un altro brano suo ancora più recente, è del 2022, che si intitola Mattarella. Amore, tu mi hai salvato la vita, esattamente come hai salvato il governo. Questa è per te, Sergio. Mattarella, Mattarella, matta per Mattarella, Mattarella, sono matta per Mattarella, Mattarella, matta per Mattarella, Mattarella. Grazie per averci dato una seconda chance. E anche se magari all'inizio non avevi voglia, ci aspettano altri 7 anni di noi. Mattarella, Mattarella, sono matta per Mattarella, matta per Mattarella. Ma devo dire che questo brano, se fosse un po' più lungo, poco più di 30 secondi, poteva diventare, o potrebbe ancora diventare, visto il protagonismo dell'attuale Presidente della Repubblica, che Dio ce lo tenga lì buono visto il resto, poteva diventare, Fausto, un tormentone estivo. Sì, peccato che il nostro Auroro si sia limitato al formato di 30 secondi. Tu ti chiederai, ma perché 30 secondi? Perché siamo arrivati a un'ulteriore evoluzione nel campo dell'internet. Siamo arrivati a TikTok. Auroro ha deciso di pubblicare un album di brani adatti per TikTok, quindi brani di 30 secondi. L'anno scorso ha pubblicato questo EP con un brano dedicato, mi sembra, alla pizza, un countdown e altri brani vari, fra cui appunto questa instant song dedicata al secondo settennato, speriamo che il più lungo possibile, il meno tormentato, ma quello purtroppo... aspetta Mattarella, aspetta qualcun altro naturalmente, sì. E quindi abbiamo le nuove frontiere della musica demenziale, quindi anche TikTok non sfugge alla presenza del demenziale. Fausto, grazie davvero di essere stato con noi, di averci accompagnato in queste 3 puntate dedicate al rock demenziale. Ti aspettiamo presto a Zibaldone. Certo Steven, alla prossima volta, con le ultimissime. In questi casi non le avevo proposte perché mi sembrava di togliere spazio ai brani e dovevamo proporre questa lunghissima cavalcata, e direi che ne valsa davvero la pena. A presto. Grazie, grazie a te, a prestissimo, un abbraccio. E beh, siamo arrivati davvero alla fine della puntata e alla fine di questo speciale. Banzo, che dire, insomma, la scelta è stata ovviamente ridotta, anche se 3 puntate sono praticamente 6 ore di musica demenziale in Italia tra l'inizio degli anni 60 e l'attualità, però certo, insomma, si è dovuto scremare moltissimo e sicuramente ci ritorneremo sopra più avanti. Guarda, con mio grandissimo dispiacere fare la scaletta è stato, potrei dire un casino, ma è stato anche doloroso, perché c'erano molte cose che avrei voluto coprire meglio e di più. Purtroppo non è stato possibile, quindi se qualcuno sente queste puntate e pensa che abbiamo escluso artisti importanti, ecco, è stato esclusivamente per ragioni di tempo. Io volevo Banzo più Leone di Lerni, ecco, lascia che lo dica a fine speciale. Insomma, vabbè, giochi a carte scoperte, insomma, non ho neanche potuto seguire al 100% i miei gusti, perché sennò sarei andato molto più pesante su altre cose, ma va bene, ecco, non lamentiamoci. Va bene così, grazie Banzo di essere stato con noi, ci ritroviamo venerdì prossimo. Sì, volevo però presentare l'ultimo brano. Hai ragione, con chi chiudiamo? Dillo un po' ai nostri ascoltatori. Ecco, anche qui diciamo rock demenziale, ma come questo qui è effettivamente, chiudiamo con Immanuel Casto, che è un personaggio che di rock non ne ha mai fatto perché si è sempre dedicato alla musica elettronica con una spiccata tendenza danzereccia, infatti chiama il suo genere porn groove. E diciamo che dall'inizio del 2000, circa degli anni 2000, 2003-2004, ha cominciato a proporre una marea di canzoni in dischi prima autoprodotti, poi più professionali, tutte a tematica porno gay, con una grandissima ironia e appunto queste sonorità dance che si abbinano abbastanza bene. Comunque, al netto di questo e al netto del fatto che insomma potrebbe non considerarsi un personaggio al 100% afferente al rock demenziale, l'ho voluto includere anche perché la prospettiva del rock demenziale è molto spesso eterosessuale al 100%, quindi mi piaceva anche chiudere con una canzone che parla di una piaga moderna, cioè mandare le foto del cazzo nelle chat di Tinder o Grindr, appunto in questo caso, ed è una canzone che io trovo veramente fra le sue più riuscite. Comunque, Immanuel, se non lo conoscete, andate a scoprirlo perché è un personaggio veramente peculiare, anche presidente del Mensa Italia per via del suo altissimo quoziente intellettivo, e recentemente ho visto un suo video nel suo canale YouTube nel quale raccontava la storia delle sue neurodivergenze, qui non c'è niente da ridere, un video serissimo raccontato col cuore in mano e una lucidità incredibile, quindi diciamo una figura davvero a 360 gradi. Immanuel Casto, Dick Peak, questo è il brano con cui chiudiamo questo speciale, la famosa invasione dei dementi in Italia, dedicato alla musica demenziale, tre puntate dagli anni 60 all'attualità, andatevela a cercare se non avete sentito le prime due. Banzo, grazie davvero di essere stato con noi e ti ritrovo la prossima settimana come sempre qui a Zibaldone. Grazie a te Steven, alla prossima puntata. E come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, alle 19.55 ogni venerdì ripeteva: l'invasione è finita, se volete potete cominciare a rassettare. Ecco, ciao Banzo, buon venerdì sera a tutti, lui è Immanuel Casto, Dick Peak, bye bye. Che vuoi conoscermi, mi domando perché proprio io, dentro a questo vuoto che c'è, dimmi cosa hai visto in me. Non conosco le tue cicatrici, la tua voce mentre piangi o ridi, ma se vuoi comprendermi, io ti chiedo solo di non mandarmi il tuo cazzo in chat dei miei sogni. Sono altre le delizie, non volevo una spada di pixel, mi hai negato la curiosità. Cita Hegel, cita Kant, ma non mandarmi più il tuo cazzo in chat. Da uomo che sei, se vuoi davvero impressionarmi, carne viva esposta, devi davvero denudarti. Le ferite son per me, le tue vere parti intime. Mandarmi il tuo cazzo in chat dei miei sogni. Lui che ne sa se ti cerco quando a sera. Non voglio certo una foto peniena. Mi hai negato la curiosità. caduto in fallo già, ma non mandarmi più il tuo cazzo in chat. Il tuo cazzo in chat. In chat. Il tuo cazzo. Ma non mandarmi più il tuo cazzo in chat.